Attacciato di brigate, d'assassini, uccisori, di donne e di bambini, ma nessuno vuol vedere i corpi stracciati dei nostri figli sotto i carri armati, i campi devastati dal fuoco americano, i nostri corpi dalle iene di Sharon. Ma tra le dune sorge il mito di settembre nero. Troppo ci pesava il bastone da pastore, i nostri figli preferiscono il fucile. L'odio si è assorbito con il latte delle madri, ora esplode negli aerei delle RAL. Troppo ci pesava portare sulla schiena il dominio di una razza di mercanti. Se con loro hanno comprato la mia casa e la mia terra, la mia libertà si paga con il sangue. Ma tra le dune sorge il mitra di settembre nero. Sulla Palestina ora rivive lo spirito guerriero. Gridano Shalom, bruciandoci le case, cantano pace, ci violentano le donne. Aiuta chi è più ricco, baionette e moribondi, queste sono le leggi di Mosè. Ma noi dico Maometto, la strada da seguire, il nostro Allah si onora col tritolo. E a chi predica la pace massacrandoci la gente, dal Corano il nostro Dio risponde guerra. Ma tra le dune sorge il mitra di settembre nero. Sulla Palestina ora rivive lo spirito guerriero. Dai, tutti insieme. Mai più Shalom, mai più Shalom, mai più Shalom, mai più Shalom, mai più Shalom, mai più Shalom, mai più Shalom, mai più Shalom, mai più Shalom.